l'altra Europa. Buon sabato e buon Ferragosto da Federico Taddia. Questa è l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa delle possibilità e delle opportunità. In queste quattro puntate di agosto ci stiamo dedicando a quattro filoni, a quattro colonne portanti per noi dell'Europa, che sono l'ambiente, che sono l'innovazione, che sono la cultura e che sono l'inclusione sociale, tema che abbiamo scelto per la puntata odierna. Vi ricordo le coordinate: euronetplus.eu è il portale del network al quale apparteniamo, un network formato da tante radio europei, oppure il mio account personale @FedericoTaddia, lì mi trovate sia su Twitter sia su Facebook, e sempre lì potete recuperare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Si parte come sempre tanti progetti finanziati dall'Unione Europea per vedere insomma quelle che sono le ricadute sul territorio di ciò che viene scelto e deciso a Bruxelles. The whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA. The big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. Un progetto di osservazione e analisi di buone prassi realizzato grazie ai finanziamenti del Fondo Europeo per l'Integrazione. Questo è Migro Village, dal ghetto all'integrazione. L'abbiamo scoperto grazie a un articolo di una collega di Repubblica, Maria Cristina Fraddoso, che ha raccontato questo progetto, questo tentativo di gestire il fenomeno migratorio facendo conciliare il sapere scientifico e la necessità di conoscere quello che accade sul campo. Ne parliamo con il professor Nicola Coniglio, che è responsabile del progetto Migro Village. Buongiorno Coniglio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Con l'Altra Europa spesso parliamo dell'altrove, del non visto, del nascosto, del non raccontato. Migro Village va a cercare di portare luce proprio in quell'ambito? Sì, certo, porta luce in un contesto poco noto ai più, che ahimè però insomma caratterizza gran parte delle filiere agroalimentari del nostro paese, quindi il lavoro nero in agricoltura di cittadini di paesi terzi, di migranti, che diciamo appunto nel nostro progetto abbiamo cercato un po' di affrontare una delle patologie legate a questo fenomeno, l'emersione di ghetti rurali, diciamo veri e propri villaggi nel cuore dell'Italia, alcuni diciamo senza alcun servizio, alcuni che raggiungono anche 2-3 mila diciamo le dimensioni di villaggi, di piccoli villaggi. Lei è ricercatore in economia politica ed economia delle migrazioni dell'Università di Bari. Cosa significa utilizzare il sapere scientifico per analizzare questi fenomeni e soprattutto per cercare di descriverli e anche di conoscerli, immagino, col contatto diretto con queste persone? Sì, diciamo è un passaggio fondamentale per informare le politiche, cioè informare le politiche, evitare di fare errori che portano a uno sperpero di denaro pubblico innanzitutto e diciamo una mancata soluzione, talvolta un peggioramento di alcuni problemi di natura sociale. Questo progetto, diciamo, per un ricercatore che è abituato a fare il proprio mestiere spesso davanti a un computer o in una biblioteca, mi ha dato l'occasione appunto di visitare questi luoghi diciamo, dove c'è la negazione del concetto di integrazione. Luoghi che nascono soprattutto dove c'è sfruttamento di lavoratori? Sì, l'illegalità è la parola chiave. Questi luoghi nascono grazie alla tolleranza di fenomeni irregolari, di fatto. Una tolleranza che spesso è inconsapevole. Diciamo, in questo anno di progetto mi è chiaro che uno dei problemi principali sia quello del non riuscire a capire che è possibile una realtà produttiva che tuteli la legalità e non schiacci i corpi di questi migranti, di queste persone che vengono sfruttate in modo atroce. Mm-hmm. È una ghettizzazione anche voluta, nel senso è un nascondersi o è un non essere considerati, quindi non trovare nessuna forma di contaminazione e di integrazione con la popolazione locale? È una ghettizzazione forzata. Paradossalmente gran parte dei migranti che vivono in questi contesti sono migranti regolari, hanno un regolare permesso di soggiorno. Tutto il resto è irregolare, le situazioni lavorative e abitative sono del tutto irregolari, ma sono migranti che potenzialmente con un regolare permesso, con un regolare contratto di lavoro riuscirebbero a sfuggire da questi luoghi che sono luoghi di intermediazione illegale, quindi non sono loro che si nascondono. Ricerca applicata, strumenti statistici, modelli di indagine, rilevamenti, perlustrazioni, tutto questo è Migro Village. Si parte da Bari e si arriva dove? Dunque, si parte da Bari e si arriva, la nostra prima tappa è stata il nord della Francia, Nord Pas-de-Calais, che oggi è un po' all'attenzione delle cronache. Certo. Siamo andati lì perché abbiamo coinvolto e siamo stati coinvolti in un progetto parallelo, sempre finanziato in parte con fondi europei, per implementare delle metodologie innovative in misurazione di fenomeni di ghettizzazione. Nel nord della Francia non si tratta di una migrazione a scopo lavorativo, ma sono migranti che cercano di attraversare il canale della Manica e che tuttavia risiedono in condizioni simili, forse peggiori di quelle dei nostri migranti nel territorio nazionale. Ma la Puglia, Bari, Foggia sono situazioni estreme in Italia o ci sono altre situazioni simili? No, è un fenomeno assai diffuso sia nel mezzogiorno del paese, ma anche in alcune realtà produttive del nord Italia, sebbene con gradi di irregolarità differenti anche per le presenze di infiltrazioni criminali, ma purtroppo l'Italia è abbastanza unita rispetto a questo fenomeno di sfruttamento. Un contesto dove sono riusciti a cancellare questo orrore dei ghetti e della vita precaria nelle campagne è il Trentino, che è stata la seconda tappa del nostro viaggio in questo progetto. Ha visto molta sofferenza? C'è tantissima sofferenza. Tenga presente che la giornata tipica di lavoro in queste aree è di circa 10 ore passate nei campi in questo periodo con 35-40 gradi. Senza la possibilità di fermarsi, perché il lavoro è di fatto a cottimo, certo. E con problemi anche di natura sanitaria, come puoi intuire, particolarmente rilevanti. E immagino tanta indifferenza attorno. www.uniba.it è il sito dell'Università Aldo Moro di Bari, nel caso vogliate conoscere meglio il progetto o contattare direttamente il professor Coniglio. Grazie davvero e complimenti per l'ottimo lavoro. Grazie per la vetrina al nostro progetto, speriamo di parlarne in termini un po' più ottimistici in futuro. Grazie. È il nostro auspicio. E adesso ci fermiamo, un Europostit, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Premio giornalistico Lorenzo Natali. Attenzione giornalisti e aspiranti giornalisti, la Commissione europea ha indetto il premio Lorenzo Natali 2015, che in coincidenza con l'anno europeo per lo sviluppo mira a ricompensare i migliori lavori giornalistici che trattano i temi dello sviluppo e più in particolare l'eliminazione della povertà. Le storie di oggi possono cambiare il nostro domani. Questo è il motto dell'edizione 2015, che consegnerà due premi in denaro del valore di 5.000 euro a un giornalista dilettante e a una giornalista professionista. Possono concorrere al premio Natali gli articoli sulla cooperazione allo sviluppo redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea e pubblicati su quotidiani o periodici di qualunque paese. Per partecipare, visitate il sito ufficiale del premio giornalistico Lorenzo Natali, ec.europa.eu/europeaid/inp. L'altra Europa. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. In questa puntata dedicata all'inclusione sociale abbiamo deciso di fare un focus particolare sui fondi sociali europei. Lo facciamo con il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Abbiamo il piacere di avere qua con noi Lucio Battistotti. Ciao Lucio, buon Ferragosto e ben ritrovato. Ciao Federico, grazie, mi fa molto piacere essere di nuovo con voi. Allora, i fondi sociali sono uno degli strumenti più importanti per... anche per creare inclusione sociale, perché vuol dire creare nuove opportunità, vuol dire mettere in mano alle persone, tramite le organizzazioni, gli strumenti. Credo che siano veramente una delle facce belle dell'Europa. Ma sì, anche secondo me. Sapete poi che il Fondo Sociale Europeo è il primo fondo strutturale, perché nasce con i trattati di Roma, e quindi perché in quel tempo la giovane Europa si componeva di 6 stati membri. Il paese più acciaccato, diciamo, o quello che era più arretrato, era l'Italia, che aveva una popolazione dedita per oltre il 35% all'agricoltura, quindi c'era necessità di formare nuove professionalità. Da lì nasce l'esigenza del Fondo Sociale Europeo, ecco, che poi evolve nel tempo, oggi è uno dei fondi strutturali ed è la sua prima missione è quella di diciamo di fare formazione professionale, ma questo è solo una parte, perché formazione professionale poi si può coniugare in anche dare nuove professionalità, adeguare gli standard di conoscenza dei lavoratori durante tutto l'arco della loro vita di fronte a mutamenti veloci. Non ultimo, anche il Fondo Sociale è stato usato sia come ammortizzatore sociale durante questa crisi, perché i soldi erano sempre di meno e la necessità di aiutare persone che perdevano il lavoro in tutta Europa sempre di più, e dall'altro anche è stato usato e credo sarà sempre più usato nel prossimo futuro anche per aiutare l'integrazione dei migranti. E un'ultima cosa che mi preme molto è quella dell'uso del Fondo Sociale anche come componente dei progetti di valorizzazione dei giacimenti, cosiddetti giacimenti culturali, cioè certo, attraverso la cultura creare posti di lavoro nuovi e belli. E fondi sociali che abbiamo imparato ad usare, ovvero è stato fatto uno scarto culturale, non sono più soldi che cadono a pioggia, sono soldi che ti vengono dati in mano se hai l'idea giusta, se hai la creatività, sì, se hai anche le competenze. Beh, tu hai centrato bene, c'è stato un cambiamento notevole all'inizio degli anni 90, l'Italia come sempre ha stentato un po' a rendersene conto, perché? Perché il fondo strutturale oggi, e il Fondo Sociale in particolare, viene cogestito dallo Stato membro e dalla Commissione Europea, cioè la Commissione Europea stabilisce a grandi linee un quadro generale di intervento, poi si preparano dei programmi operativi regionali e nazionali e poi le decisioni debbono venire prese a livello regionale, quindi sono le regioni che decidono secondo un piano loro e secondo anche il principio della sussidiarietà, cioè chi è più vicino alle esigenze dei cittadini conosce o dovrebbe conoscere meglio le esigenze degli stessi. Quindi diciamo non c'è un modo per essere fondo sociale o non c'è una tipologia di intervento unica, queste debbono essere adattate alle esigenze del territorio su cui diciamo insistono. Ricordiamo poi anche che sono dei fondi che non sono non sono tutti europei, ma prevedono una parte più o meno piccola di cofinanziamento nazionale. Questo perché? Per creare anche appunto una responsabilizzazione di coloro che utilizzano i fondi, ecco. E quindi diciamo c'è questa parte, il controllo poi spetta congiuntamente prima agli stati membri e poi alle istituzioni europee, diciamo, ecco. Quindi vedete, è una macchina abbastanza complessa che però ha dato buona prova di sé in gran parte delle situazioni in cui è stata utilizzata, e anche perché prevede una certa flessibilità, come dicevo, cioè bisogna tener conto se la programmazione pluriannuale, oggi parliamo di programmazione 2014-2020, quindi sembra un periodo lunghissimo, 7 anni, sì, però è perché si prevede un piano, ma laddove le esigenze cambino, l'economia cambi, ci siano esigenze nuove che emergono, anche non so, richieste di nuove professionalità, nuove industrie, l'abbiamo visto cosa è successo in questi anni purtroppo, ma ed ecco, il fondo sociale deve essere capace di adattarsi e di venire incontro alle esigenze prima di tutto dei lavoratori, insomma, e delle aziende. Non ti chiedo se i soldi sono abbastanza, perché insomma sarebbe anche una domanda. Non sono mai abbastanza. Non sono mai abbastanza, esatto. E invece se è fatta abbastanza formazione e informazione su questi fondi? Beh, guarda, secondo me diciamo, rimane ancora molto da fare. Purtroppo l'Italia è un paese che, pur essendo uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, stenta ancora ad usare totalmente i fondi e soprattutto ad usarli bene. E tra l'altro secondo me lì non è solo un problema dell'Italia, ma è un po' di tutti i paesi europei, c'è la tendenza a non comunicare sufficientemente ai cittadini quello che si è fatto con i loro soldi, perché ricordiamoci che, cari ascoltatori, i fondi strutturali sono fatti con i vostri soldi, cioè c'è una parte dell'IVA che noi paghiamo che va nelle casse comunitarie e una cosiddetta diciamo un contributo verso le casse europee che arriva allo 0,9% più o meno, 0,95% del PIL di ogni paese, e che quindi sono i soldi del contribuente europeo che poi tornano nei vari paesi e debbono quindi avere sia un valore aggiunto che anche essere spesi bene, diciamo, nel modo giusto e in modo che producano risultati. Laddove noi, le istituzioni, hanno sbagliato assieme agli stati membri è nel non aver spiegato ai cittadini che cosa si è fatto con questi soldi. Se ne è parlato solo in occasione di qualche scandalo, purtroppo lo sappiamo, qualche forma di cattivo utilizzo delle risorse, di frode eccetera, c'è stata sicuramente, però diciamo anche che quante cose buone sono state fatte, ecco, purtroppo non lo diciamo, e non è voler fare propaganda, è voler quantomeno informare i cittadini che con i loro soldi sono fatte queste cose che sono anche buone, insomma. Assolutamente, insomma, si dice sempre quello che non si fa, è bene anche raccontare quello che si fa, ed è quello che stiamo cercando di fare anche qui con l'altra Europa. Lucio, grazie come sempre. Grazie a te e buon Ferragosto a te e a tutti gli ascoltatori. Buon sabato e a presto, ciao. Di nuovo, arrivederci. Aiutare gli anziani che vivono soli e in case di proprietà ad affrontare le spese per la loro assistenza, restando a casa propria. Un po' questa è la finalità di un progetto europeo Over to Over, che vede la regione Liguria capofila. Per capire di che si tratta ne parliamo con Claudio Regazzoni, Auser Liguria. Buongiorno Claudio, buon sabato. Buongiorno a voi tutti. Allora, è un progetto assolutamente innovativo che vede appunto la Liguria come capofila e gli anziani al centro, anziani magari soli, magari senza figli, magari bisognosi di assistenza, anziani spesso proprietari di immobili, però da questi immobili non hanno rendite. Per questo nasce il progetto Over to Over. Di cosa si tratta? Allora, sicuramente è partito il progetto con quanto diceva lei, nel senso di dare un'opportunità in termini di sostegno agli anziani che vivono soli e sono proprietari di appartamenti e se decidono di vendere in nuda proprietà, di non essere, come dire, soggetti messi di fronte a un mercato che potrebbe anche poi strumentalizzare le loro condizioni. Detto questo, però, nella costruzione del progetto, nella sua realizzazione, è venuto fuori con nettezza che il problema, specie in una regione come la Liguria, ma credo anche quelle che erano con noi, la Toscana e anche la Corsica, no, il tema doveva essere visto in una dimensione dove l'abitare anziani diventa un punto focale per quanto riguarda le politiche che aiutino le persone che invecchiano. Questo cosa significava? Che il progetto, oltre che poter aiutare rispetto a quelli che hanno intenzione di prendere in nuda proprietà, di garantire principalmente tutti gli strumenti possibili affinché l'anziano potesse vivere il più a lungo possibile nella propria abitazione. Perciò non solo la vendita, o non tanto la vendita, cioè in questo senso la vendita come ultima istanza di una serie di come dire, offerte, di opportunità, di ragionamenti dati all'anziano che possa essere in grado di decidere per poter far sì di continuare a vivere il più a lungo possibile nella propria abitazione. Ecco, questo è diciamo un progetto che si è reinquadrato così e la sua conclusione ha in qualche modo confermato questa impostazione. Voi siete volontari e siete intervenuti formando altri volontari e entrando in relazione diretta con questi anziani? Il progetto, sulla base di quello che le dicevo, si è sviluppato mettendo insieme i comuni che erano interessati della regione, la regione e altri soggetti sociali e soggetti anche privati, immobiliaristi, agenzie e tutto il terzo settore, per costruire una rete regionale motivata ad affrontare questi temi. Accanto a questo abbiamo individuato come forum del terzo settore, come associazioni, gli anziani interessati a fare un'esperienza di volontariato su questi temi e ci siamo proposti la formazione di anziani volontari immobiliari, li abbiamo chiamati. Però il senso di questa attività di volontariato è quello che le dicevo prima nel senso più generale. Questi corsi sono stati fatti, abbiamo avuto docenti che hanno dato a queste persone tutti gli elementi che potessero in qualche modo poi essergli funzionali a quello che è la loro attività di volontariato, che dovrebbe consistere non di sostituire l'anziano o di sostituire altri soggetti, ma di essere facilitatori rispetto ad una rete che sia in grado di rispondere alle varie esigenze che l'anziano in qualche modo viene ad avere e a proporci. Questo primo step si è concluso all'inizio di questo mese e ha permesso di avere la rete regionale, un codice etico di quei dei soggetti che entrano nella rete e 50 volontari formati. E in più abbiamo oltre 60 comuni della nostra regione che hanno condiviso di stare nel progetto. Si è deciso poi di passare alla fase operativa, che ci permetterà di andare alla costituzione, abbiamo detto, di sportelli per over to over e in particolarmente su quello che è il tema dell'abitare anziani. Insomma, una presenza capillare molto importante e credo anche in prospettiva, appunto, con una utilità assoluta. www.overtoover.eu è il sito per conoscere l'intero progetto. Grazie davvero, ragazzoni, e complimenti. Grazie a voi, buongiorno e buon Ferragosto. Grazie, grazie. Adesso ci fermiamo alla pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Tenderness, speak to me with gracefulness, speak to me with happiness and love. buon sabato e buon Ferragosto da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa at Federico Taddia. Per seguirmi anche su Twitter e su Facebook, lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, e tutto ciò, come sempre, lo potete ritrovare anche sul nostro sito radio24.it. Puntata dedicata all'inclusione sociale nelle sue mille accezioni. Stiamo scoprendo anche progetti finanziati con fondi europei proprio per favorire questa inclusione a 360 gradi. Molto bello il progetto che stiamo andando a scoprire, è un vademecum per l'inclusione finanziaria degli stranieri, quindi è indirizzato agli imprenditori stranieri, è stato presentato dal Comune di Roma. Ne parliamo con Marta Leonori, assessore a Roma Produttiva. Buon sabato Marta, benvenuta all'Altra Europa. Buon sabato anche a voi. L'inclusione finanziaria attraverso questo vademecum in quattro lingue, e da dove nasce intanto l'esigenza? Qual è stata la realtà che avete osservato? Ma l'osservatorio sull'inclusione finanziaria è un progetto creato dal CESPI e finanziato con appunto dei fondi europei, come veniva detto, dal Ministero degli Interni e dalla Commissione Europea con il Fondo FEI. E il CESPI ha voluto creare due osservatori in due grandi città, Roma e Milano, sì, per verificare come avanzava e quali erano i numeri dell'inclusione finanziaria dei migranti, e quindi analizzando quanti imprenditori ci sono, in quali settori, qual è la vitalità anche di queste imprese e quindi anche quali sono le esigenze degli imprenditori, dividendo anche i nuovi arrivati da invece gli immigrati stabili. Per rispondere anche all'esigenza di avere una maggiore stabilità, che può avvenire anche attraverso un conto corrente bancario, abbiamo effettuato questa brochure che sarà distribuita alle sportelli anagrafici e agli sportelli unici delle attività produttive, sia quello centrale che quelli che abbiamo nei 15 municipi, per segnalare laddove ci sono nella città di Roma degli sportelli che hanno dei mediatori culturali o che hanno anche degli orari di apertura straordinari, e laddove si parlano anche delle lingue che possono essere lingue non diffuse, come per esempio il cinese. Mm-hmm. Questa brochure è tradotta in quattro lingue: italiano naturalmente, spagnolo, bengalese e cinese. Ok, quindi insomma quattro lingue per quattro comunità. È molto bella questa cosa dei mediatori, che sono ovviamente mediatori culturali, mediatore linguistico è fondamentale anche per un imprenditore che voglia lanciarsi con un'attività nel nostro paese. Quindi segnalate la presenza di questi mediatori, la presenza di banche con sportelli che possano favorire l'accesso agli stranieri, e poi ci sono altre esigenze particolari che sono state riscontrate. Ma sì, laddove ci sono dei desk di consulenza specifica direttamente, sì, nelle filiali, e laddove appunto ci sono dei progetti aggiuntivi, per esempio quelli dedicati al microcredito. Ci sono appunto queste informazioni che saranno diffuse anche attraverso il nostro portale, sono pubblicate le brochure già sulla pagina del Dipartimento dello Sviluppo Economico, proprio per dare delle informazioni aggiuntive agli imprenditori stranieri che vogliono rafforzare la loro stabilità nella nostra città. www.comune.roma.it, vi ricordo, è il portale da dove è possibile anche scaricare la mini guida. Grazie davvero assessore, buon lavoro e buona estate. Grazie a voi. Europostit. Tirocini per traduttori in Lussemburgo. Il Parlamento europeo propone tirocini di traduzione di 3 mesi presso il Segretariato Generale. I tirocini per traduttori sono riservati ai titolari di diploma di laurea e hanno l'obiettivo di consentire ai partecipanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di prendere dimestichezza con l'attività dell'Unione Europea. I tirocini per traduttori si svolgono esclusivamente a Lussemburgo, presso la Direzione Generale per la Traduzione e l'Interpretariato. Trovate più informazioni sulle condizioni di ammissione e sulle candidature sul sito del Parlamento europeo, europarl.europa.eu/aboutparlament, nella sezione Tirocini. Paperback writer. Paperback writer. Ed ora è il momento dei consigli di lettura. Lo sapete, in queste puntate di agosto dedichiamo uno spazio proprio a suggerirvi alcuni libri, alcuni titoli per approfondire temi europei. Lo facciamo con Thierry Vissol, che è consigliere speciale media e comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e soprattutto è anche conduttore della trasmissione Un Libro per l'Europa, che potete ascoltare sia sul sito sia sulle pagine Facebook della Commissione Europea. Ciao Thierry, ben ritrovato. Ciao Federico, sempre contento di parlare di libri con voi. E noi siamo ben felici di ascoltare i tuoi consigli. Oggi cos'hai scelto dalla tua biblioteca? Allora, di nuovo ho scelto due libri, uno che è veramente un classico, è stato scritto da un scrittore finlandese che si chiama Mika Waltari. Sì. Il titolo del libro è Gli amanti di Bisanzio, che è stato ripubblicato da Iperborea nel 2014, è un libro che è stato scritto nel 1946 e questo libro ci porta nel Mediterraneo, cioè nel Mare Nostrum, e racconta l'assedio e la caduta di Costantinopoli nel 1453. E l'eroe di questo si chiama Johannes Angelos, è un eroe nomada, mistico, filosofo, è nato a Costantinopoli, ha vissuto in Europa e ritorna verso Costantinopoli, prima come con un posto d'onore alla corte di Maometto II, quello che fa la sedia di Bisanzio, sì, che abbandona per ritrovare i suoi amici di Bisanzio e difendere Bisanzio contro Maometto II. E lui è innamorato di Anna Notaras, una dignitaria del regime, diciamo, dei Basileus, e racconta un po' tutta questa storia d'amore intralasciata con la storia vera, la presa di Costantinopoli, e mostra come fede ideali universali di un'antichità che ha saputo conciliare Oriente e Occidente sta tramontando, un tramonto di un'epoca che va a separare il mondo, diciamo, arabo-musulmano-turco dal mondo occidentale. È un'evoluzione verso un mondo dove la materia ha sopravvento sullo spirito, dove la legge economica ha sopravvento sulla morale e dove il calcolo sopra la passione. E quindi un bellissimo libro di amore, di storia e è qualcosa di assolutamente affascinante e nello stesso tempo una riflessione su questi tramonti di epoche che si svolgono molto spesso. Certo, insomma, certo, la giostra, i cicli della storia che appunto finiscono e mettono poi le basi per i cicli successivi. Il secondo titolo invece che hai scelto oggi? Allora, il secondo titolo è sempre sul Mediterraneo e su Mare Nostrum, si chiama Corrispondenze Mediterranee, Viaggio nel Sale e nel Vento, è stato pubblicato da Oltre Edizioni nel 2015, è scritto da un'italiana specialista del Maghreb e del Mediterraneo che si chiama Ilaria Guidantoni. Sì. E questo racconta, è molto legato al primo, perché di fatto c'è una barriera che separa le due sponde del Mediterraneo, tra il nord che ha una concezione molto monolitica dell'identità, della cultura, eccetera, e la sponda sud, quella del Maghreb, che al contrario ha una visione molto più, diciamo, molteplice, di identità molteplice, di cultura del nomadismo intellettuale, perché loro si sono sempre ritrovati tra religioni diverse, ebrea, cattolica, musulmana, tra lingue diverse, l'arabo, il berbero, il francese, l'italiano. E questo libro è una specie di è un romanzo dove l'eroina Eloisa si sposta di, diciamo, in vari paesi, in Marocco, la Tunisia, l'Algeria, sempre al limite delle frontiere naturali che separano i popoli, a Tangeri, che è a volta una frontiera ma anche un ponte verso l'Occidente, a Sawira, che è una città sul mare nel sud del Marocco, che è anche la frontiera tra il deserto e il mondo occidentale, ma nel stesso tempo il ponte tra l'Africa, il Maghreb e l'Europa. E quindi ci fa viaggiare in tutte queste identità molteplici, semplice e fa vedere come le nostre radici sono completamente intralacciate con questi popoli del Mediterraneo. Hanno la stessa cultura, cioè hanno conosciuto tutti quelli che abbiamo conosciuto, fenici, greci, romani, francesi, barbari, tutto. E quindi c'è una corrispondenza, come dice lei, mediterranea, tra le due sponde, tra le due rive del Mediterraneo, dove la cultura è molto più, diciamo, permeabile di quello che noi pensiamo e soprattutto molto più permeabile della nostra cultura monolitica, e quindi ci dà una bella idea di quello che dovrebbe essere una cultura con delle identità molteplici che possono corrispondere tra di loro, come l'hanno fatto nei secoli passati. Si viaggia quindi nel tempo e nello spazio, oggi con gli amanti di Bisanzio e con corrispondenze mediterranee, viaggio nel sale e nel vento. Da Un libro per l'Europa a L'altra Europa, questi sono i consigli di Thierry Vissol. Grazie Thierry, ci ritroviamo qui sabato prossimo, ciao! Grazie Federico, a sabato prossimo! Adesso ci fermiamo, il traffico poi ancora qua con L'altra Europa. L'altra Europa. I gotta get home, there's a garden to tend, all the fruits on the ground, the birds have all moved back into my attic, whistled and static, young learn to fly, I will patch up the holes once again. Well, I can't believe that my laundry is dead. È il Regio Stars Award 2015, è il concorso che ogni anno seleziona i progetti regionali più stimolanti e innovativi presentati in Europa e sostenuti dai fondi dell'Unione della Politica di Coesione. In questa puntata in cui parliamo di inclusione sociale ve li volevamo presentare, sono due i progetti italiani. Il primo si chiama Mild Home e ne parliamo con Carlo Bruzzi, che è il sindaco di Castelnuovo Rangone. Buongiorno Bruzzi, buon sabato. Buongiorno. Allora, Mild Home sono case ad alta efficienza energetica e a basso costo, cioè edifici ad alte prestazioni, ma accessibili anche alle fasce di reddito più deboli, per questo si parla di inclusione sociale. Ce ne vuole parlare meglio? Sì, esatto, il punto di partenza è stato proprio quello, cioè la presa d'atto che nella nostra zona, ma penso che siano così per tutto il paese Italia, ma concentriamoci sulla nostra zona, fatto 100 le famiglie che sono in affitto, quasi il 40%, quindi 4 famiglie su 10, pagano un affitto per la casa che è troppo alto, troppo forte, incide troppo sul reddito familiare, quindi li portano, come si suol dire, in disagio abitativo, termine tecnico per dire che paghi un affitto troppo alto rispetto al reddito che hai. Sì. Partendo da questo, che quindi è un problema di una dimensione notevole, nel merito e anche dimensionalmente proprio, abbiamo cominciato a lavorare per vedere quali politiche dal punto di vista degli enti locali si può portare avanti per cercare di allenire o risolvere il problema, tenendo conto che non abbiamo a disposizione soldi pubblici, perché questo è il punto, per costruire le case, dare in affitto a condizioni agevolate. Come fare ad affrontare il problema? Da qui abbiamo cercato di allargare l'orizzonte e partecipare, siamo candidati a partecipare a suo tempo a questo progetto europeo che aveva un po', ruotava un po' attorno a questo tema. Erano coinvolti diversi paesi, l'Italia ed altri 5 paesi europei, e noi come parte italiana, parte castelnovese del mio comune, abbiamo cercato di lavorare proprio nel progetto per costruire un modello, chiamiamolo così, un modello possibile di intervento che prefigurasse come fare a costruire delle case, degli appartamenti in classe energetica A, in contesti ambientali come si deve, quindi non pagando nessun prezzo sul piano energetico ed ambientale, sì, ma un costo globale, finale, che consentisse al costruttore, quindi al privato, soldi privati, al costruttore privato, di concederlo obbligatoriamente in affitto a condizioni inferiori del mercato, appunto per lenire questo disagio abitativo. Ed è chiaro che tutto questo è possibile solo se il costo finale è un costo che consente poi di fare l'operazione. Assolutamente. E chiedo scusa, Italia, Austria, Bulgaria, Grecia, Romania, Serbia ed Ungheria sono paesi coinvolti in questo progetto per case modulari, intelligenti, low cost e a bassissimo consumo energetico, ma che sono pensate costruite? No, ancora no. Forse la ragione per la quale penso ci hanno premiato, ci hanno selezionato è perché lo sforzo che abbiamo fatto qui a Castelnuovo Rangone, in Italia ma in particolar modo a Castelnuovo Rangone, è stato di andare oltre la progettazione, cioè di provare a vedere concretamente se quel modello di progettazione poteva essere concretamente applicabile a un caso concreto, a una situazione concreta. E quindi cosa abbiamo fatto? Oltre a fare il concorso di idee, in cui hanno partecipato ben 25 progettisti italiani per cercare di risolvere il problema, nel concorso era previsto che il vincitore sarebbe stato il progettista che veniva pagato da un privato, il quale a sua volta aveva una convenzione col comune, ha una convenzione col comune per realizzare in un suo terreno alcuni di questi appartamenti, sui quali ha l'obbligo per 20 anni di concederli alle condizioni d'affitto che avevamo posto all'inizio. Chiaro. E quindi diciamo che siamo riusciti, forse questa è la peculiarità, siamo riusciti in un modo molto molto piccolo, perché 6 appartamenti sono inerti rispetto al problema, ma dare anche oltre al progetto, dargli anche una concretezza operativa che nei prossimi mesi dovrebbe cominciare a produrre i suoi effetti. Grazie davvero, complimenti. comune.castelnuovo-rangone.mo.it è il sito del comune per conoscere meglio anche questo progetto Mild Home. Buona estate, sindaco. Grazie, arrivederci. Europost-it. Fellowship al CERN di Ginevra. Ti piacerebbe lavorare per 2 anni in un ambiente internazionale all'avanguardia nella ricerca? Allora potresti essere interessato a uno dei programmi di fellowship offerti dal CERN di Ginevra, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Le fellowship del CERN vengono assegnate a circa 200 persone l'anno, divise tra un gruppo di Senior Fellowship per lavori di ricerca di fisica sperimentale o teorica e un gruppo di sviluppo e ricerca sulle scienze applicate, computing e ingegneria. Le fellowship di fisica sperimentale o teorica sono rivolte solitamente ai ricercatori che hanno completato un dottorato o PhD, mentre le fellowship in scienze applicate, computing e ingegneria sono aperte anche a laureati triennali e magistrali. Le candidature dovranno essere inviate entro il 7 settembre 2015, seguendo le istruzioni indicate dal sito jobs.web.cern.ch. I have found I'm who I am. By holding you closer than anything other than what I held, closer than you. Sperimentare nuove applicazioni dedicate alle persone con disabilità per il miglioramento dell'accessibilità urbana a Parma, Lisbona e Madrid. Questo è il cuore del progetto Simon, con il quale chiudiamo questa puntata dedicata all'inclusione. Ne parliamo con Chiara Spaggiari, responsabile ufficio marketing e progetti europei di Infomobility. Buongiorno Chiara, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, saluto tutti. Chi è Simon? Allora, Simon è una bella opportunità che è capitata alla città di Parma e alla mia azienda qualche anno fa. Il progetto è un finanziamento europeo che ha una durata triennale, è iniziato nel gennaio del 2014 e finisce nel 2016. Si tratta di gestire dei finanziamenti, appunto, che l'Unione Europea ha destinato a questo consorzio di città per migliorare, come ha detto lei appena adesso, la mobilità delle persone con mobilità ridotta in ambito urbano, perché si parla spesso di barriere architettoniche, ma forse negli ultimi anni non si è mai esplorato tanto il tema del problema proprio dell'accesso alle ZTL, che può essere problematico per le persone disabili, o ai parchi parcheggi stessi negli stalli di sosta nelle aree pubbliche. Molto spesso, questo lo sappiamo meglio, possono creare dei problemi alle persone che hanno più difficoltà nel muoversi. Cambiano le città, cambia il modo di vivere la città e ovviamente cambiano anche le modalità di accesso per chi ha mobilità ridotta. Questo è il futuro che è già un presente anche delle città moderne. E quali sono le metodologie utilizzate e le azioni messe in atto dal progetto? Allora, sostanzialmente il finanziamento Simon ha l'obiettivo in questi 3 anni di creare un'applicazione tecnologica, sì, che possa essere usata attraverso gli smartphone, che permetta alle persone con disabilità di avere maggiore informazione sulla mobilità in ambito urbano, quindi prima di tutto dal punto di vista del trasporto pubblico, quindi avere comunque accesso alle informazioni delle fermate, degli percorsi, degli autobus, dei tempi di percorrenza e anche le informazioni in tempo reale, ma anche dal punto di vista del trasporto in ambito privato, cioè come spostarsi con le proprie con i propri mezzi. Allora, in questo caso quindi Simon vuole fornire delle facilitazioni per quanto riguarda, appunto, come dicevo prima, l'accesso nella ZTL, perché allo stato attuale il disabile deve comunicare o al telefono preventivamente le targhe con cui si accede alle ZTL. In questo modo, attraverso l'app, Simon vuole dare la possibilità a queste persone di potersi, nel momento in cui ci si trova direttamente in tempo reale sotto il varco, comunicare attraverso lo smartphone il numero della targa con cui si effettua l'accesso, senza avere problemi di multe o quant'altro, quindi di essere immediatamente riconosciuti e senza incorrere, appunto, in problemi di sanzione, multe. Certo. In secondo luogo, e questo è un altro, secondo me, passo importante che sta compiendo Simon, è quello di limitare la contraffazione invece dei permessi di sosta dei disabili da parte di persone che non ne abbiano diritto diciamo, certo, che è una pratica in effetti molto odiosa, quando in effetti il disabile si trova sul stallo occupato da persone che invece disabili non sono, in effetti non è estremamente corretto. E Parma, Lisbona, Madrid hanno molte assonanze e comunque queste soluzioni sono facilmente replicabili anche in altre città. Che abbiamo delle assonanze, perché siamo città molto diverse anche per dimensioni. Noi tra l'altro abbiamo l'orgoglio che siamo stati chiamati, appunto, dal coordinatore del progetto, che è una società di Valencia, ETRA, che fa ricerca e sviluppo con l'Istituto di Biomeccanica, appunto, di Valencia. Siamo stati chiamati, appunto, da loro perché Parma già da tempo, dal 2008, usava una tecnologia molto avanzata nell'uso dei permessi di sosta per i disabili, per cui siamo stati chiamati in effetti come un'eccellenza in Europa, assieme a queste altre città pilota, quindi Lisbona, come ha detto lei, e Madrid. Testeremo, e stiamo entrando adesso nella fase di test e nella sperimentazione proprio da parte degli utilizzatori finali di un prototipo di app, e al termine, diciamo, di questa sperimentazione, che adesso sono 50 persone, nel giro di un anno prevediamo di coinvolgere 1000 persone. Al termine, appunto, di questa fase di sperimentazione vogliamo creare, diciamo, analizzare i risultati, creare anche un piano, diciamo, di valutazione di trasferibilità anche alle altre città, e poi, come in tutti i progetti europei, ci impegneremo, appunto, in una attività di dissemination, cioè di cercare di trasferire alle altre città, in modo che altre città possano avvantaggiarsi di quello che noi abbiamo sperimentato con fatica in 3 anni e avere, diciamo, con meno dispendio di energia e di finanziamenti anche un'applicazione di questo tipo, diciamo. Simon, linetaproject.eu è il sito per conoscere nel dettaglio l'intero progetto. Grazie davvero, Chiara, buon lavoro. Grazie, complimenti, arrivederci. E questo grazie, come sempre, va a tutti voi per essere stati stato in nostra compagnia e alla squadra dell'altra Europa, Paolo Corleoni, oggi ai tasti, mentre come sempre Miriam Lucchetti e Silvia Righini con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento è a sabato prossimo, oppure ci trovate in rete radio24.it nelle pagine dell'altra Europa. Ancora ciao, ancora buon Ferragosto da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.